bienvenue, bienvenue, welcome. Français, étranger, stranger. Ludwig, tu sais, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe rester. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Bene, oggi tanto per cambiare parliamo un po' di Milano. Milano ovviamente è la patria deputata del cabaret e l'occasione per parlare di questo ci è data dall'uscita recente del libro di Gianfranco Manfredi, Enzo Iannacci, Canzoni. E la puntata di oggi e anche quelle che seguiranno saranno appunto dedicate alla produzione di questo grosso autore milanese che secondo me informi e ha informato di sé tutta una serie di produzioni cabarettistiche del periodo, diciamo, dello Iannacci milanese. Ce ne parla molto bene Manfredi in questo libro, descrivendo appunto la situazione di Milano degli anni più o meno dal 57 al 61. Era la Milano che risentiva, come in tutti gli anni 50, degli influssi del rock. In quegli anni, dice Gianfranco Manfredi, che tutti voi appunto conoscerete per essere stato l'autore di dischi ispirati più o meno al movimento 67, da Zombie Tutto il Mondo Unite via Biberon, Gianfranco Manfredi dice: in quegli anni, dal 57 al 61, lui faceva le medie perché era più giovane, mentre nello stesso edificio delle medie più avanti c'era il Moreschi, cioè ragioneria, con vicino l'istituto tecnico industriale. Lì al Moreschi in quegli stessi anni c'era Ricky Gianco, che io ancora non conoscevo, credo ci fosse anche Guidone, c'era o c'era stato Gaber, e alle feste del Moreschi, che è appunto questo istituto di ragioneria, cantavano i due corsari, cioè lo stesso Gaber e Iannacci, che vengono appunto da ragioneria. Come mai tanto rock in un solo istituto? Perché ragionerie? Per capire un po' meglio questo, dice, bisogna ricordare un po' cos'era i Moreschi. L'istituto confinava appunto con un giardinetto, una chiesa che aveva un ossario proprio sulla strada, e la sorella maggiore di Manfredi, che faceva il Moreschi, racconta che ci fu uno scandalo perché alcune ragazze furono sorprese a gettare biglietti d'amore ai detenuti della adiacente casa circondariale quando andavano a prendere l'aria. Sostanzialmente al Moreschi ci si picchiava, e pare che tra questi scalmanati ci fosse anche il piccolo ma già determinato nano del rock Riccardo Sanna, cioè Ricky Gianco, che si distinse perché portò un pesce fradicio come regalo di compleanno al professore. Quanto ai professori, erano altra gente, in genere pazzoidi, segnati dagli anni passati ad ammuffire a scuola. Alcuni soprannomi: Gestapo, noto professore fascista del Moreschi; Trapezio, professoressa di diritto così soprannominata per via dei vestiti a trapezio, una moda che allora andava abbastanza; Cita, l'orrenda prof d'inglese che la prima volta che apparve sulla porta uno spiritosone disse «Andalù, portala via». Andalù era l'inserviente di Lombardi nella famosa trasmissione televisiva di quegli anni, L'amico degli animali; Diana, altra professoressa di francese che aveva due tette decisamente storiche e si era soprannominata così per via di Diana d'Ors. Soldi non ce n'erano, al massimo c'era la Vespa, che allora non era un vezzo ma era una necessità. Con le donne il rapporto era difficile. A mia sorella il massimo che le capitò fu che un compagno di classe le chiese: «Manfredi, mi insegni a baciare?», dopodiché non rimase ad ascoltare la risposta e fuggì. Mai si seppe da dove veniva quella fama di baciatrice, dato che non aveva mai baciato nessuno. In compenso, siccome le ragazze portavano il grembiule nero, i compagni gli fregavano i grembiuli e ci disegnavano sopra le tette, che era il massimo del divertimento. Alle feste si ballava Tony Dallara e Johnny Ray e oppure Pat Boone, andavano di più i lenti per via dello struscio. Il rock, se c'era, era alquanto esagitato. Mi hanno raccontato di Enzo che, ballando, a un certo punto lasciò la dama e si buttò a torcersi per terra, perché allora chi ballava il rock era detto balabiot bauscie, cioè danzatore nudo salivante, vale a dire epilettico, compreso Celentano. C'è poco da stupirsi quindi che il rock venisse fuori da Milano, e poco da stupirsi che a Milano di Little Tony non ce ne state granché, anzi il rock imboccò una via direi quasi schizoide. E di questa via abbastanza schizoide ne sono un esempio tutte le canzoni contenute nel LP Liquirizia, che poi la colonna sonora del film omonimo di Samperi, che molti hanno visto negativamente, ma che invece è un perfetto spaccato della Milano anni 50, con le classiche rivalità tra appunto l'istituto di ragioneria summenzionato, c'è molta autobiografia in questo, e invece il liceo classico, che ha tutt'altre idee. Ovviamente i leader di ragioneria erano il Gianco e il Manfredi summenzionati, e dalla colonna sonora di questo Liquirizia vi mando senz'altro una canzone che mi sembra abbastanza emblematica, cantata da Giancarlo Manfredi. Signorina, little my bambina, non potrò lasciarti mai. Live in the corner, pray my Madonna, che non mi risponde mai. E non chiamarmi Kiko, stick banana people, baby you're okay, go right. Every day I'm crying, every night I'm saying, you're the best, the great, the one. Very special people, any common persons, where you ask me always why. A little bit signora, give me another hora, a bit but like and say me, I'm a, I feel romantic, I'm so romantic, you're so romantic, I don't understand my silly truth, look pale, but today I feel romantic. I'm so romantic, yeah. I'm so romantic, I don't understand my silly truth, look back for today. Little signorina, little my bambina, non potrò lasciar, non potrò lasciarti mai. Chiamarmi chi, chiamarmi chi, banana people, banana baby you rock, baby you rock, go round. A little bit signora, give me another hora, a purple light, you see, mama, I feel romantic, I'm so romantic, you're so romantic. I'm so romantic, I don't understand me silly jute to look where for today. I feel romantic. Romantic. I'm so romantic. You're so romantic. I'm so romantic, I don't understand me silly jute to look where for today. I feel romantic. I feel romantic. I feel romantic, romantic, romantic. I feel romantic, I feel romantic, I feel questo è Fabio Concato che nel film fa la parte di General Flint, un rocchettaro degli anni 50. Gianfranco Manfredi lo si sente nel pezzo dopo, e in attesa che arrivi questo pezzo c'è una gustosa descrizione di Manfredi su quelli che facevano rock. Uno dice Raquel Sacco, un ex culturista egiziano che cantava "Oh mamma, voglio l'ovo alla coque". Poi c'era Bob Nebbia che nel pezzo "Alle 5 della sera" diceva "Alle 5 della sera non c'è il toro nell'arena, sui bastioni di Siviglia ballo il rock". Svenne in scena perché non riusciva ad andare insieme all'orchestra. Quanto a Ricky Gianco, aveva già inciso pezzi di Eddie Cochran e incise anche La camicia blu, che diceva "Se ti metti la camicia blu non venire a casa mia mai più, tu lo sai che sono allergico e non posso sopportare la camicia blu". Come si vede, sono testi estremamente pregnanti. Il rock milanese nasce quindi all'insegna della nevrosi galoppante, e quasi tutti hanno dei problemi con la mamma. I testi sono sempre sull'orlo del nonsense, cantati in un italiano assurdo con dei tentativi di americanizzazione, come appunto nella canzone di General Flint adesso, che suonano quasi bergamasco. Le parole si scompongono in sillabe e si ricompongono formando parole inesistenti, tipo "quando senza amor solo resterò, tornerò da te, voglio il tuo amor sol per me, per c'è però ciao ti dirò, puppa ciao ti dirò, baciami ti lascerò". E in questa linea si inseriscono appunto anche Gabriel Iannacci, ma di questi diremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Manfredi. I dream of you, you dream of me, invisible dreams. Guys, you don't scream. I want you in my dreams, a king of guys. You don't scream. I want your love. I want you in my dreams. My sky covers your mind. Night sky covers your mind. A king of guys, and you don't scream. I want your love, I want you in my dreams. Avete appunto sentito Manfredi. Dicevamo che anche Iannacci e Gaber si muovevano abbastanza in questo ambiente e avevano messo su una specie di complessino tipicamente scolastico, che era appunto i Corsari Scozzesi, e come Corsari Scozzesi cantavano insieme Teddy Girl, Zitto Prego, Tintarella di Luna, tutti i pezzi, dice Manfredi, un po' folli, liberati da problemi di contenuto, che non fosse quello di prendersela con le racchie e con quelle che non ci stavano, cioè tutte. Queste sono canzoni che forse i due autori oggi rinnegherebbero, specialmente Gaber, che ha preso una via abbastanza seria, ma questo tipo di discorso abbastanza surreale, abbastanza schizofrenico, come appunto lo definisce lo stesso Manfredi, secondo me ha un valore, se non altro un valore documentario. E vi faccio ascoltare ad esempio questa Zitto Prego, che ha appunto come autori, oltre che come interpreti, Iannacci e Gaber insieme nella formazione dei Corsari Scozzesi. Zitto Prego! Due vagabondi lungo la strada va, senza parlarsi ma. No, no, non fischiare no, non continuare no, perché fischia sei male, uffa. Loli lo lorindoro, lido lorindora, lido lorindora. Zitto prego. Van due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare no, non continuare no, perché tu canti assai male, uffa. Vagabondi va, lungo la strada va, senza parlarsi ma. No, no, non fischiare no, no, non cantare no, perché, perché la nostra vita è triste, uffa. No, no, non fischiare no, no, non cantare no, perché, perché la nostra vita è triste. Sentiamoci anche una fetta di limone. Signora, non ci siamo capiti. Signora, sta sempre perché ti dico. No, ai tuoi baci dico no. No, al tuo amore dico no. Al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei racchia, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Voglio 100 sacchi nel grano per gli intappi, i regali da mucchi. Sei ricca ma sei sciocca, per me sei troppo secca, per questo non mi tutti. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che ti insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Contenuti veramente all'avanguardia. E da ultima, per completare, sentiamoci quella che dà il titolo alla raccolta, cioè Corsari Scozzesi. I corsari sono partiti dalla Scozia, indossano una specie di tutù, a scacchi gialli, rossi, verdi e blu, cantando la clamò, ogni radio su per giù. I corsari sono partiti dalla Scozia, però ci andare in maggio sanno andare, ma stanno per un doblone a litigare. scozzesi, non si può le tradizioni rinnegar. I corsari sono partiti dalla Scozia, oh yes! Oh yes! Oh yes, Dalla Scozia son partiti verso i mari del sud, con un vecchio per bandiera e un barile di rum. A son di cornamusa san ballar, la giga per pigliato sopra il mar, bevendo a notteri, purché non debbano pagar. Verso il mare dei Caraibi fanno vela, oh yes. Ritorna a Popa, qui! Oh, yes! I corsari alla tortuga sono giunti, o di governatore dichiarò, la tassa sui pirati metterò, il capo disse no, e tutta vela se ne andò. Sono partiti da Tortuga i corsari, oh yes! Sono tornati nella Scozia i corsari, oh yes! Beh, direi che questi corsari scozzesi, che erano poi Gabriel Iannacci, per chi non avesse sentito la trasmissione dall'inizio, sono veramente due autori di cabaret del tutto sballati, che evidentemente dimostrano come gli sballi non siano proprio solo di questi anni, ma anche degli anni 50, anche se di sballo diverso si tratta. E siccome non avremo occasione di tornarci tanto spesso, vorrei rimanere in quest'ambito e sempre dalla colonna sonora di Liquirizia vi faccio ascoltare due pezzi di Ricky Gianco che costituiscono il suo exploit finale nel film. Alla fine c'è questa recita, questo saggio, e c'è Ricky Gianco che era diventato un commercialista, o meglio un aiuto commercialista, come ogni ragioniere che si rispetti, che viene chiamato per fare la star di questo spettacolo, e praticamente è grazie a lui che questa sorta di recita riesce ad avere uno sbocco diciamo musicale, prima di avere quello abbastanza violento della rissa tra le due opposte fazioni. Il primo pezzo di Gianco si chiama Tutto Rock. A sentimenti sopra quel tutù, non venire a casa mia mai più, te l'ho detto tante volte ormai, se ci provi ancora sono guai. Tu lo sai che non sopporto di vedere il tuo culone sotto quel tutù, coi peli neri rosa non ti sta, e poi tutù era di mio papà, non mi incazzo per l'oggetto in sé, ma papà l'ha regalato a me. E poi tu non puoi ballare col culone che nascondi sotto a quel tutù. Sembra quasi un'ossessione, e fa un caldo da leone. Prima toglierò il palco e chissà cosa poi farò. Schizofrenico diventerò, di miei unghi io ti graffierò, di canini poi ti morderò, di felino ti divorerò. Tu lo sai che non sopporto di vedere il tuo culone sopra il mio palto, sopra il mio palto, sotto il mio tutù, sotto il mio tutù. Piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu, piccatelli in cu. O cavallina, cavallina, brutta storia s'avvicina, sento odore di latrina, di latrina. Questa è Cavallina Rock. Che sta salendo fino a qua, tu guardi sotto la scappina, ma la puzza s'avvicina, s'avvicina, s'avvicina, s'avvicina. Brutto storia si avvicina e sento odore di latrina, di latrina. Wow! Bene, se negli anni 50 era a quel livello, chissà adesso. Concludiamo con l'ultimo pezzo, che è chiaramente Distruzione. Avete sentito quindi il messaggio finale di Ricky Gianco, che era abbastanza esemplare. Infatti il film si conclude a Sediate, e con questo si conclude anche la puntata di Cabaret di oggi, che vi ricordo è stata una puntata, una prima di un ciclo, sulla nascita di Iannacci, l'ambiente in cui questo cantautore e cabarettista inizia a lavorare, a cui seguiranno evidentemente altri dischi dei periodi seguenti, per giungere evidentemente fino ai giorni nostri. Con questo io direi che la puntata di oggi si può considerare conclusa. Senz'altro mando la sigla. What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. It's only a cabaret outcome that I'll